e tu sentivo difficile. Chi sei? Signore, credo di me. È un giorno di settembre, nel bar di una stazione, la folla delle danze mi rendono invisibile. Quando dovremmo rinascere e ne prende la moda questa storia di te, che magari sei sola anche senza di me, e non ricchi niente e non ricci di più per le strade di sempre e conosce anche tu. Sentivo difficile, chissà, dovremmo rinascere. Dov'è il tuo studio di ukulele? Non parla di qualche canzone. Però ho sbagliato. C'è stato un sito dove ci stanno spartiti per l'ukulele. Sì, sì, cioè ne stanno tanti. Io sono Mario. Ha sbagliato la penna. Ce l'hai la penna dentro per l'ukulele? No, sono con le mani l'ukulele. Prendi la penna da feltro, feltrata per l'ukulele. Sì. Tu la trovo la... Da filtro è filtrata sopra, c'è proprio il peletto. Io sono un sostenitore wireless, è il giorno in cui aboliranno tutti i cavi, i fili.